Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 673. Una puntata con delle diversità di linguaggio piuttosto interessanti e stimolanti, e sicuramente tutti di ottima qualità. Iniziamo subito con una sassofonista europea, un olandese, Tineke Postma, che ho avuto anche il piacere di conoscere, di ascoltare dal vivo nell'ultima edizione di Lucca Jazz Donna, il festival al femminile di Lucca. Tineke Postma è una sassofonista che ho già avuto il piacere anche di promuovere nei miei programmi con un'altra pubblicazione discografica rispetto a questa che vi presento stasera, intitolata Sonic Halo. E il CD è realizzato insieme al grande Greg Osby, Tineke Postma al sax alto e soprano, Greg Osby anche lui al sax alto e soprano, Matt Mitchell al pianoforte e al piano Rhodes, Dan Weiss alla batteria e Linda Ho al basso. Una bella formazione per un CD veramente molto interessante, di grande qualità, con una strizzata d'occhio alla contemporaneità, ma anche con grande rispetto della tradizione. Ci ascolteremo il pezzo che apre l'album, intitolato Sea Skies. Buon ascolto con Tineke Postma e Greg Osby. Thank you. Bene, questa era la musica di Tineke Postma e Greg Osby. Insieme hanno realizzato questo bel CD intitolato Sonic Halo, dal quale noi ci siamo ascoltati Sea Skies, una composizione originale che apre l'album. Si tratta di un album molto particolare, con delle atmosfere, come avete sentito, contemporanee, dei momenti di grande astrazione, grande raffinatezza, di eleganza, e che mettono in evidenza le qualità di questi due straordinari musicisti, Tineke Postma, molto meno conosciuta di Greg Osby, ma che sta conquistando i favori della critica ovunque e si sta muovendo molto bene a livello internazionale. Tineke Postma al sax alto e soprano, Greg Osby anche lui al sax alto e soprano, Matt Mitchell al pianoforte e al piano rose, Dan Wise alla batteria, Linda Ho al contrabbasso. Lasciamo Tineke Postma e Greg Osby con le loro atmosfere contemporanee molto rarefatte e interessanti, e andiamoci ad ascoltare un trombettista italiano dalla grande carriera e di grande validità. Sto parlando di Cicci Santucci, che suona la tromba, il flicorno, è un compositore, arrangiatore, e che lo potremo ascoltare stasera in una sua composizione originale intitolata Just the Blues, insieme a Francesco Santucci al sax, Andrea Beneventano al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. Buon ascolto quindi con Cicci Santucci. Thank you. Bene, questa era la musica di Cicci Santucci, grande trombettista con un trascorso in orchestra tutta la vita e anche come leader di propri progetti discografici jazz, un personaggio con grande professionalità, con grande entusiasmo, che ha vissuto tutta la vita la musica con il cuore di un bambino e nello stesso tempo ha lasciato pagine di musica notevoli, interessanti, ancora chiaramente in attività, sempre vivo nella sua passione per la musica e stasera ci ha dato questo esempio di sua composizione originale con Just the Blues insieme a Francesco Santucci, Andrea Beneventano, Dario Rosciglione e Marcello Di Leonardo. Un bel blues ricco di belle intuizioni e caldo e vissuto con complicità dal suo gruppo. Lasciamo Cicci Santucci con il suo Just the Blues e andiamo avanti con una formazione che si chiama Snarky Puppy, formazione che insieme al Metropole Orchestra di Utrecht hanno realizzato un bel progetto discografico intitolato Silva, dal quale noi ci ascolteremo una composizione originale intitolata Atchafalaya. Buon ascolto con Snarky Puppy and the Metropole Orchestra. Thank you. Bene, questa era la musica del gruppo Snarky Puppy and Metropole Orchestra di Utrecht, un bel pezzo, questa acciaffalaia che sicuramente ci ha fatto vivere momenti di gran bella energia, una bella sonorità, un ritmo incalzante, accenni di elettronica, quindi un pezzo che, pur essendo in chiave rigorosamente di rispetto della tradizione, ha anche un aspetto contemporaneo, un simpatico CD questo, con delle belle composizioni anche di una certa, appunto, energia allegra, pimpante, swingante, che riesce ad avvolgere e in qualche modo ad affascinare l'ascoltatore. Il titolo del CD è Silva, e ricordo il gruppo Snarky Puppy e Metropole Orchestra. Adesso ritorniamo in Italia e ci ritorniamo con un contrabbassista, si chiama Claudio Ottaviano, ha realizzato un CD che si intitola Aurora, molto bello, con composizioni originali e con una band di tutto rispetto. Claudio Ottaviano, come ho appena detto, è al contrabbasso, insieme a lui Antonio Zambrini al pianoforte, che tra l'altro ho avuto proprio il piacere di incontrare e di ascoltare qui a Pisa quest'estate durante un concerto, Tino Tracanna, l'amico e grande sassofonista di cui ho una stima infinita, ai sax, Roberto Paglieri alla batteria, un gruppo quindi di ottimi professionisti per questo CD Aurora, che vede Claudio Ottaviano, come dicevo prima, anche compositore. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Sideman Stories. Buon ascolto con Claudio Ottaviano e il suo gruppo. Thank you. ci siamo ascoltati la musica di Claudio Ottaviano, contrabbassista e compositore che ha creato questo bel progetto discografico intitolato Aurora con il supporto di straordinari musicisti che chiaramente impreziosiscono questo progetto discografico con grande bellezza, con grandi performance solistiche, con intuizioni che possono fare veramente la differenza. Tutti professionisti di grandissima capacità tecnica, ma anche di grande sensibilità. Avete sentito questi bellissimi assoli, questi fraseggi di Zambrini al pianoforte, di Tracanna al sax, che veramente sono di altissima qualità. Belle composizioni di Claudio Ottaviano, morbide, romantiche, calde, che questi musicisti hanno saputo interpretare veramente con grande poesia e con grande capacità tecnica. Un bellissimo CD intitolato Aurora. Lasciamo Claudio Ottaviano e andiamo ad ascoltare una bravissima cantante di jazz, soul e non solo, una cantante che ha fatto della nostra nazione la sua nuova casa. Si tratta di Sherrita Duran, che ho avuto anche il piacere di promuovere non solo in Anima Jazz ma anche in un'edizione del Festival delle Voci Jazz Italiane, che tornerà nel Festival delle Voci Jazz Italiane anche quest'anno proprio grazie a questa nuova pubblicazione a cura di Alpha Music, che si intitola The Look of Love. È un CD veramente molto bello. La cantante Sherrita Duran è una professionista di prim'ordine, molto armoniosa, molto calda, espone le frasi sempre con grande professionalità e con grande sensibilità. Sherrita Duran in questo progetto ha la voce chiaramente, insieme a Alessandro Altarocca al pianoforte, Felice Del Gaudio al contrabbasso ma anche al basso elettrico e Lele Veronesi alla batteria. Stasera ci potremo ascoltare l'interpretazione di The Look of Love. Buon ascolto, Sherrita Duran. Let's take a lover. vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, wanted just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Questa era la bella voce di Sherrita Duran, una grande professionista, un artista che ha saputo reinterpretare questo mito della musica, The Look of Love, con grande originalità, con una sensibilità particolare, con delle intuizioni interpretative veramente molto stimolanti e interessanti. Ricordo che Sherrita Duran, grazie a questo ultimo CD intitolato proprio The Look of Love, pubblicato da Alpha Music, che è stata selezionata per il Doobidoobidoo 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, quindi avremo occasione di riascoltarla nel prossimo autunno. Sherrita Duran alla voce, Alessandro Altarocca al pianoforte, Felice Del Gaudio al contrabbasso e basso elettrico, Lele Veronesi alla batteria. Questa è la formazione di questo bel CD pubblicato da Alpha Music, che vede Sherrita Duran veramente con delle interpretazioni di grande prestigio, di grande rilievo, di grande professionalità. Adesso andiamo avanti con un artista che si presenta per la prima volta nei nostri programmi, un musicista che ha una grande esperienza, un batterista ma è anche un compositore. Si chiama Jerry Granelli, un italo-americano che ha realizzato un bel CD intitolato What a Year Now, e l'ha fatto insieme a Mike Marley, che è un grandissimo sassofonista che abbiamo avuto il piacere anni fa di promuovere con proprie pubblicazioni discografiche, Danny Orr al sax tenore e soprano, Andrew McKelvey al sax alto, Andrew Jackson al trombone e Simon Fisk al bassetto tre corde. Veramente un bel CD molto particolare. Noi da questo What a Year Now di Jerry Granelli ascolteremo Run, Danny Run. Buon ascolto. Thank you. Questa era la musica di Jerry Granelli. Jerry Granelli, batterista ma anche compositore, arrangiatore, si tratta di un musicista già in avanzata età, con grande entusiasmo, con grande voglia e con una grande carriera alle spalle, che ancora suona con l'entusiasmo di un ragazzino e con la voglia di sperimentare, di rimettersi in gioco. L'avete sentito con questo pezzo Run, Danny Run, nel quale la sperimentazione, la contemporaneità non manca, e quindi è un musicista che vive nel presente, ripeto, nonostante non sia più giovanissimo, e che condivide con ottimi musicisti delle nuove generazioni i suoi contenuti musicali. Insieme a Jerry Granelli alla batteria abbiamo Mike Marley al sax tenore, Danny Orr al sax tenore soprano, Andrew McKilvey al sax alto, Andrew Jackson al trombone, Simon Fisk al bassetto tre corde. Jerry Granelli dal CD What a Year Now, e ci siamo ascoltati Run Rennie, Danny Run. Bene, adesso continuiamo il nostro percorso con Christina Morrison. Christina Morrison è una cantante molto brava che ho avuto il piacere di conoscere proprio in questo periodo per la prima volta. Per la Jazz Head ha realizzato un CD intitolato Baronessa, e l'ha fatto insieme a Misha Piatigorsky al pianoforte, alle tastiere e alle percussioni, Ari Oenig alla batteria e Danton Buller al basso. Christina Morrison ha una bella impostazione, lo sentirete, ci farà ascoltare Vocalism for My Mother. Buon ascolto quindi con Christina Morrison e il suo quartet. Molto brava questa cantante, avete sentito Christina Morrison nell'interpretazione di Vocalist for My Mother, una bella interpretazione, molto vivace, interessante, mossa, con delle variazioni stimolanti e delle belle performance anche dei musicisti che l'accompagnano in questo percorso musicale. Il CD è intitolato Baronesa e noi ci siamo ascoltati Vocalist for My Mother, nel quale erano presenti anche Misha Piatigorsky al pianoforte, alle tastiere, alle percussioni, Ari Oehning alla batteria e Dalton Bowler al basso. Christina Morrison. Bene, lasciamo Christina Morrison e andiamo avanti con Robertinho De Paula. Robertinho De Paula è un conosciutissimo artista, un conosciutissimo chitarrista. Inutile ricordare che è figlio d'arte, il grande Irio De Paula è suo padre, ma Robertinho De Paula non vive certo della luce riflessa del grande padre, ormai mitico in tutto il mondo, ma vive di una luce propria, che è quella di una chiave jazz, molto più marcatamente jazz rispetto al padre, dei suoi interventi chitarristici. Non solo questo, ma anche di grandissima qualità. Chiaramente questo che fa il valore di questo straordinario musicista brasiliano. Il nuovo CD è intitolato The Seed of Love, Jazz Guitar Brazilian Style, pubblicato dalla GB Music, e il pezzo che ci andremo ad ascoltare stasera, intitolato Every Little Thing She Does Is Magic. Buon ascolto quindi con il grande Robertinho De Paula. Thank you. Bene, questa era la performance del bravissimo chitarrista brasiliano Robertinho de Paula, che dal CD The Seed of Love, Jazz Guitar Brazilian Style, pubblicato dalla GB Music, ci ha fatto ascoltare una sua bella interpretazione di Every Little Thing She Does Is Magic, un'interpretazione elegante, raffinata, che conferma la bravura non solo tecnica ma anche interpretativa con grande sensibilità di pezzi scritti da altri ma fatti rivivere con una propria visione, con un proprio sentire. E si conclude qui la trasmissione con Robertinho de Paula, si conclude questa 673esima puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.